L'occhio guarda dove l'orecchio indica, afferma la saggezza popolare. Si definisce infatti orientamento acustico l'istinto innato di rivolgerci alla fonte del suono o del rumore, un riflesso incondizionato implicito nell'istinto di conservazione. Quando a livello fisiologico il sistema uditivo non è contemplato, come nella sordità, i restanti sensi lavorano per compensazione. Ci sono però, fortunatamente, delle tecniche di ascolto che prescindono le orecchie e si spostano sul corpo e nel corpo. Ci addentriamo nell'argomento con Erika Salbego e Alessandro Paola. Erika, Alessandro, ciao, ben arrivati, grazie di essere qua. Ciao, grazie a te per l'ospitalità e per questo meraviglioso momento insieme. Ciao, grazie mille per questa ospitalità. Ciao. Allora, Erika, tu sei una performer teatrale, musicista e pedagogista. Da più di 20 anni collabori con diverse realtà a livello nazionale e internazionale, dall'editoria alla didattica musicale, dai concerti agli spettacoli alla radio. Sei infatti una mia collega di Radio Città Fujiko. Allora, entriamo nel vivo dell'argomento. Quando penso, le parole che si formano nella mia mente sono dei suoni. Suono ed ascolto esistono anche come fenomeni trasversali. Il poeta sordo Willie Conley, americano, parla di un ascolto attraverso le ossa, di una sorta di udito tattile, quindi, che ascolta attraverso le superfici e la pelle delle cose. Questo è anche il campo di azione di una delle tue ricerche, Erika. Sì. Allora, guarda, infatti ne approfitto brevemente per presentare anche Alessandro, certo. Perché lui fa parte della Fondazione Gualandi, che è la Fondazione per i Sordomuti di Bologna, una fondazione importantissima con cui io ho collaborato già da un po' di anni, ma nello scorso anno abbiamo creato un percorso assieme che nasce da una mostra di strumenti a percussione e va a invece elaborare tutta una serie di concetti che poi diventano pratica quotidiana per chi non sente, quindi per i sordi. Noi abbiamo lavorato con Alessandro proprio su quello che tu dicevi, cioè un percorso che va al di là della sordità e del suono in relazione all'udito, ma va sul percorso tattile. Quindi io riesco, toccando uno strumento, a ottenere una vibrazione che direttamente entra nel mio corpo. Non ho bisogno dell'udito per sentire questa vibrazione, ma ho tanti altri modi per percepirla. Quindi con Alessandro abbiamo lavorato proprio su questo. Con chi? Con un gruppo di ragazzi sordi della Fondazione Gualandi, che stanno con loro non quotidianamente, ma spesso, no Alessandro? Quanti giorni a settimana li vedete i ragazzi voi? Praticamente quasi nella settimana, da lunedì a venerdì, parecchie volte, nel senso che abbiamo dei corsi di italiano, quindi lunedì mattina 2 ore, lunedì pomeriggio, martedì mattina, il mercoledì pomeriggio, il giovedì mattina e il giovedì pomeriggio. Quindi abbiamo di 2 ore all'incirca con tanti momenti dedicati a loro. E noi abbiamo dedicato alcuni di questi momenti proprio al discorso sonoro, quindi del suono in relazione al loro corpo. E sulla percussione questo è molto facile, perché gli strumenti a percussione puoi suonarli con le bacchette, ma puoi suonarli con le mani, e sono tutti strumenti che al tatto producono un suono, quindi con molta semplicità riesci a colpire e ottenere una vibrazione. E abbiamo fatto proprio questo, chiamiamolo gioco, perché è stato un gioco che abbiamo fatto con loro, ci siamo anche molto divertiti, loro in particolar modo, perché è stato proprio uno scoprire come il loro corpo potesse percepire quei suoni, e anche loro per primi avevano uno stupore da questo punto di vista, perché un violino, che ha un suono molto acuto, loro fanno fatica a sentirlo, anzi non lo sentono proprio, mentre una gran cassa, un timpano, un tamburo rullante, toccandolo e anche con le bacchette abbiamo visto che riuscivano lo stesso a sentirlo, perché crea delle vibrazioni basse che entrano nel loro corpo e quindi si va ad abbattere un muro che per loro è un muro enorme, giusto Ale? Sì, la cosa molto interessante che abbiamo notato, ovviamente noi abbiamo un gruppo di ragazzi stranieri italiani, E quando abbiamo fatto questa proposta, ovviamente era una scelta libera, no? Rispetto a chi volesse partecipare o non partecipare. E la cosa che ci ha sorpreso è che chi ha partecipato, dopo poco, quando ha capito cosa poteva fare, si lasciava andare, no? Proprio come gli udenti, no? Che fanno qualcosa che non hanno minimamente la percezione di cosa possa essere, ma in realtà poi ti incomincia a piacere, ci prendi gusto. E la cosa interessante è che questi ragazzi, mentre provavano, mentre Erika faceva delle proposte, si lasciavano andare e se la godevano. Sì, è vero. Infatti c'è questo luogo comune del pensare i sordi lontani dalla musica, ne parlavamo anche tra noi educatori, insomma, che non si pensa, no, come il sordo possa avvicinarsi alla musica, invece è stato proprio un abbattere questo muro, come dicevo prima. Abbiamo banalmente Beethoven, ma Beethoven era tutto un altro percorso, no, che ha scritto, certo, musica, e invece oggi questi sono sicuramente i metodi migliori per loro, la sperimentazione del corpo in relazione al suono. E devo dire che anche con i bambini, perché alla Fondazione Gualandi hanno anche dei gruppi di bimbi, perché la mattina c'è il nido e la materna, giusto? Abbiamo un nido d'infanzia e una scuola dell'infanzia dove appunto all'interno della struttura ospitiamo anche bimbi sordi, e poi abbiamo tutto quello che rientra nella sfera appunto dell'accoglienza di questi ragazzi adulti sordi, e quindi ci sono dei corsi di italiano, arte terapia, e contemporaneamente proponiamo varie attività, tra cui queste qua della musica e del ballo, che nel corso del tempo ci stanno sorprendendo. Parliamo quindi sempre di individui sordi dalla nascita? Sì, sono in realtà la sordità è un vero e proprio ventaglio, quindi okay, ci sono individui appunto sordi alla nascita, altri che lo sono diventato. Sì, come Beethoven, di cui sopra. Esatto, esatto. E mi piace immaginare, però smentitemi se sbaglio, che si riesca a sviluppare una raffinata interpretazione della vibrazione quale traduzione del suono, cioè si riescono a percepire suoni diversi in funzione di gravità e acutezza? Sì, assolutamente, assolutamente, perché prendiamo ad esempio uno xilofono e un timpano o una gran cassa, che sono due strumenti a percussione. Lo xilofono suona sempre anche attraverso il tatto della mano, quindi certo, chiaramente suona meglio con una bacchetta, però se tu lo percuoti suona, e ha un suono molto acuto e di legno, quindi è un suono che ha un tipo di vibrazione, mentre una gran cassa, sia che tu la colpisca con un battente che con una mano, ha un suono assolutamente più vibrante, diciamo, ma perché è grave. Quindi per esempio nel caso di una persona sorda, la gran cassa è percepita benissimo attraverso le sue vibrazioni, mentre lo xilofono molto meno. Ci abbiamo lavorato un po' infatti sugli strumenti a tastiere delle percussioni, che sono la marimba, lo xilofono, il vibrafono, i glockenspiel, e anche i crotali, che sono i piattini più piccoli, sì, certo, intonati. Abbiamo lavorato tantissimo con loro perché le note più acute non riuscivano a percepirle come vibrazione, mentre nella marimba, che è uno strumento più grave perché arriva delle note più basse, nonostante fosse in legno e molto simile a uno xilofono, prendendo le note basse siamo riusciti invece a far percepire quelle vibrazioni, e piano piano, abituandosi alle note gravi della marimba, sono riusciti a percepire qualche vibrazione anche più acuta. Cosa che appunto con altri tipi di strumenti, per esempio le note alte di una chitarra, non riusciamo a fare, perché purtroppo non arrivano proprio quelle vibrazioni. Qual è il feedback di questi ragazzi e di queste ragazze rispetto alla percezione della vibrazione che vi, allora, restituiscono? Mi ricollego prima a quello che diceva Erika, che la parte di sperimentazione è stata molto, molto ben organizzata da lei, no? Perché c'erano tanti strumenti, quindi i ragazzi potevano proprio in autonomia provare e riprovare per capire se qualche strumento desse loro un'emozione, uno stimolo, un sentire appunto quello strumento là. Il feedback è molto positivo, nel senso che ci sono vari ragazzi che avrebbero voluto continuare ancora questo percorso, ma poi ovviamente si è terminato per varie, diciamo... Sì, beh, vicissitudini, ecco. Esatto, esatto, esatto, esatto. Per esempio c'era un ragazzo abbastanza datato che A lui praticamente ha ricordato più che altro proprio un rapporto con la sua famiglia, con suo figlio, perché è un musicista, quindi questo qua gli ha dato delle emozioni legate proprio a un contesto familiare, no? Quasi come se si sentisse vicino a suo figlio che è proprio musicista, tramite questo provare e riprovare insieme agli altri. E qualcun altro aveva un po' il sound dentro, no? Ce lo siamo detti, perché per esempio c'era questo ragazzo che lui è d'origine tunisina e ci ha raccontato che in famiglia, quando era piccolo, nelle feste che lui viveva, provava insieme agli altri a suonare, e quindi, vero Erika, cioè lui si è ritrovato, ricatapultato in quel mondo praticamente, quindi è stato un momento meraviglioso. Oltretutto ha tirato fuori musicalmente delle ritmiche pazzesche su uno djembè, è stato proprio ad ascoltarlo meraviglioso. Wow. Quindi immagino lui che cosa potesse sentire e percepire di quelle vibrazioni che stava creando, è stato proprio un bel momento. Ma la particolarità di questi momenti assieme è stato che la Fondazione Gualandi, avendoci ospitato con la nostra mostra, perché spiego brevemente, la mostra di strumenti a percussione si chiama Suoni, colori e ritmi delle percussioni, che sono gli strumenti di Agenda. Agenda appunto è questo contenitore che fa tante cose nel mondo dello spettacolo, tra cui questa mostra, come dicevi tu, l'editoria, spettacoli e tante delle cose che faccio io sono dentro ad Agenda. Questi strumenti sono più di 500 strumenti dal mondo, wow. Quindi è un giro per il mondo attraverso lo strumento a percussione. Adesso purtroppo non è più possibile visitarla, perché la Fondazione Gualandi ci ha ospitato per mesi lo scorso anno, ma adesso la mostra l'abbiamo smontata e il percorso è finito. Però se capita di trovare in giro una situazione di questo tipo, chiaramente non si può che approfittarne per organizzare dei momenti di condivisione con qualunque tipo di persona. Quindi noi siamo partiti dai bambini e siamo arrivati fino agli anziani, e in questi laboratori con i sordi c'erano i gruppi dei bambini alla mattina e c'erano dei bimbi che avevano dagli 1 ai 3-4 anni, e poi al pomeriggio avevamo gli adulti. Quindi le emozioni che sono state percepite da noi educatori, ma anche da loro in prima persona, sono state quelle di trovarsi coinvolti in questo giro per il mondo con tutti questi strumenti, e poi ovviamente condividere questa emozione con chi era a fare il laboratorio con loro. Quindi è stato un po' un insieme di energie che si è unita e che ha creato poi questo percorso meraviglioso, ecco. Mi viene in mente una vicenda, a me piace parlare delle situazioni appunto belle concrete. C'era questo incontro con Erika che suonava con altri del suo gruppo, e all'interno degli ospiti c'era anche questo bimbo di 9 anni che era lì con suo padre, che assisteva guardava e sentiva il concerto, e piano piano si allontanava dal padre e si avvicinava verso gli strumenti. Era proprio come se venisse chiamato, attirato, dagli strumenti, e più si avvicinava e più il papà con lo sguardo lo bloccava, perché secondo lui non poteva farlo. Ovviamente Erika mi aveva detto che chiunque volesse in quel momento suonare con loro lo poteva fare. Quindi io con lo sguardo al papà ho detto: no, guarda che può andare. Quindi lui piano piano si è avvicinato, finché ha preso poi possesso di uno strumento e si è messo a suonare insieme a loro. Non solo, Amad ha iniziato anche a fare il direttore d'orchestra a un certo punto, quindi a dirigere noi musicisti e a darci gli attacchi su quando dovevamo intervenire più forte, più piano, quindi con dei gesti lui ci indicava quello che dovevamo fare, che era poi l'obiettivo di quel momento. Era un concerto, ma i nostri concerti in quelle occasioni sono ovviamente... È incredibile questa capacità umana di sopperire a certe proprie mancanze fisiologiche, e mi piace molto questa idea che l'ascolto possa essere incarnato. Infatti, per esempio, anche le lingue dei segni decentrano la voce dalle corde vocali alle mani, no? Alle espressioni del volto, insomma, si sposta nel corpo, non si parla delle cose, le si incarna proprio. E detto questo, viviamo in una società che propugna molti stigma, no? Tanti stigma. Mi vengono in mente, per esempio, molte lotte storiche legate alla Deaf Nation, la nazione sorda, per difendere quest'ultima dalla colonizzazione del mondo degli udenti. Mi viene per esempio in mente la conferenza di Milano del 1880 che ha istituzionalizzato l'oralismo e l'audismo come principi guida dei nostri sistemi educativi, in pratica quindi tagliando fuori tutte le persone sorde. Il tempo vola perché dal 1880 ad oggi sono passati tanti, tanti anni, ma i problemi restano. Come a livello pedagogico, come, a parte i vostri sforzi titanici e aulici, come funziona la questione della sordità? Allora, questa è una diatriba che in realtà nel mondo dei sordi appunto è storica, come hai appena detto tu. Bisogna dire che nel corso degli anni le cose sono cambiate, le cose stanno cambiando. Attualmente ancora i sordi si dividono in due categorie, i sordi segnanti e i sordi oralisti. Noi ovviamente come Fondazione Gualandi accogliamo tutti i sordi a 360 gradi, quindi da noi arrivano ragazzi che conoscono la lingua dei segni, altri che invece non la conoscono, chi è oralista, chi è impiantato, chi ha le protesi, ognuno con le proprie caratteristiche, perché okay. Appunto per noi è importante accogliere proprio i ragazzi sordi, perché è proprio un obiettivo della Fondazione Gualandi. Una cosa molto importante che vorrei dire è che dal 2004 è stato praticamente eliminato il termine muto dalla parola sordo muto, che spesso si sente, no? Si pensa che un sordo non sia in grado di necessariamente di saper parlare. Di saper parlare, invece in realtà tutti i sordi sono in grado di parlare, quindi appunto viene definito soltanto sordo. Ovviamente la cosa bella è proprio che tramite la musica, che è un qualcosa che non rientra un po' nel canone di che possa appartenere a una persona, no? Sorda, in realtà è un qualcosa che ci ha sorpreso tramite questo laboratorio e tramite altre situazioni che noi proponiamo appunto in fondazione, nei vari laboratori che proponiamo, no? Proprio incontro con la cittadinanza e con i comuni e con i musei e l'arte in generale, come il sordo riesca in realtà a far uscire tutta quella parte di emozionale che non ti aspetti, perché appunto le capacità che hanno intrinseche sono veramente tantissime. Sì. Credo che i vostri sforzi siano veramente aulici. Per fortuna esistono persone come voi, ragazzi, quindi a voi va tutto il mio e il nostro rispetto. Per quanto riguarda il nostro simposio, voi avete apportato un contributo. Vogliamo allora, così, sì, parlarne? Esatto, introduco un attimo perché nel contributo sentirete di nuovo la mia voce, perché il mio egocentrismo è questo, quindi quando si sta in radio ci si vuole stare sempre di più. Quindi, certo. Allora, no, questo contributo è pensato in questo modo. Durante il laboratorio, come abbiamo detto, ovviamente sono usciti dei suoni dagli strumenti a percussione. Sono suoni che vanno spiegati, perché non sono melodie, non sono ritmiche precise, ma sono suoni improvvisati dai ragazzi sordi. Quindi nei vari step del laboratorio sono cambiati alcuni tipi di suoni e soprattutto sono stati fatti dei percorsi. Di conseguenza, in questo audio, che durerà una decina di minuti, noi abbiamo estrapolato dei momenti laboratoriali dove i ragazzi hanno utilizzato gli strumenti in maniera diversa, o singolarmente o in gruppo, e quindi io spiegherò step by step che cosa è successo. Ci sarà una breve introduzione, un piccolo ascolto di suoni, poi altra introduzione di spiegazione a come è proseguito il laboratorio, poi di nuovo i suoni. Quindi non ci aspettiamo di ascoltare la musica di Beethoven, ma invece piuttosto una pioggia di suoni che ci sommergerà anche di gioia, perché si sente, da come sono stati suonati, la gioia di chi li ha suonati, quindi di questi ragazzi veramente felici di fare quel percorso. Quindi insomma, ecco, io ho cercato di estrapolare i momenti più salienti e migliori di questi strumenti e di questi ragazzi che li hanno suonati. Fantastico, io ringrazio Erika Salbego e Alessandro Paola della Fondazione Gualandi. Ragazzi, ascoltate il vostro ascolto e ricordatevi di ricordare. Grazie. Grazie. Buona a te. Giornata. Grazie mille. Ciao. Ciao. Il laboratorio Suoni, Colori e Ritmi delle Percussioni ha coinvolto anche un gruppo di lavoro della Fondazione Gualandi che ha esplorato i suoni degli strumenti a percussione in relazione alla sordità. Quindi abbiamo direttamente fatto suonare i ragazzi dei loro laboratori, sono tutte persone adulte, che hanno appunto toccato con mano gli strumenti a percussione e hanno cercato di capire quale suono potevano percepire e poteva arrivare al loro udito nonostante le problematiche che quotidianamente vivono. Alcuni di loro hanno deciso di utilizzare subito le bacchette, quindi con i battenti hanno provato a dare dei colpi e a creare piccoli ritmi che arrivassero al loro udito con il suono dello strumento, che è una cosa un po' particolare perché loro non sentono il suono nelle note acute ma nelle note gravi, quindi alcuni suoni non riuscivano proprio a sentirli, mentre altri suoni più gravi come strumenti di membrana, quindi tamburi, per esempio i timpani sinfonici, le grancasse, erano suoni e vibrazioni che a loro arrivavano con chiarezza. In alcuni casi, dicevo, li hanno esplorati con i battenti, in altri casi invece hanno deciso di utilizzare il tatto, quindi con le mani suonare direttamente per esempio una grancassa e provare a capire come il suono arrivava, e quindi alcuni con le unghie, alcuni con i polpastrelli, alcuni con la mano aperta hanno toccato gli strumenti e hanno creato dei ritmi facendo poi questo laboratorio appunto con noi e creando piccole anche melodie. Con la marimba, per esempio, che è uno strumento di legno che solitamente si suona con le bacchette, alcuni l'hanno suonato anche con le nocche delle mani e in altri casi invece proprio con i battenti, ma nelle note gravi, perché nelle note acute non arrivava il suono, mentre nelle note gravi riuscivano a percepire non solo le vibrazioni, ma anche il suono vero e proprio dello strumento e quindi creare anche piccole melodie. Questo percorso individuale sullo strumento a percussione, quindi direttamente sul suono, ha creato un po' di sinergie nel gruppo, perché mentre uno di loro suonava e quindi toccava con mano gli strumenti, ognuno a modo suo, gli altri avevano una relazione a quei suoni e addirittura alcuni si sono messi a ballare e a muoversi a tempo con le ritmiche, le piccole melodie, i piccoli suoni che tiravano fuori i loro compagni di laboratorio. Quindi abbiamo visto anche il gruppo che si muoveva assieme al suono creato dagli altri. Quando siamo approdati alla batteria, che è uno strumento misto perché ha suoni di membrana e quindi tamburi, ma anche suoni metallofoni con i piatti, e si utilizza sia con le mani sia coi piedi, abbiamo visto delle novità simpatiche, perché i ragazzi si sono approcciati allo strumento in tantissimi modi diversi, con grande creatività. Quindi abbiamo già detto, toccando con le mani e non con le bacchette direttamente i tamburi, ma anche provando diversi suoni con i piedi. Quindi il movimento in relazione alla batteria è stato davvero interessante, e ognuno di loro ha esplorato i suoni di questo strumento. Dal lavoro individuale sullo strumento passiamo poi al lavoro di gruppo, dove mettiamo assieme tutti i ragazzi e li facciamo suonare liberamente sugli strumenti. In una seconda fase invece ascoltiamo delle piccole strutture ritmiche fatte in successione dal gruppo, quindi suona il primo partecipante, il secondo, il terzo, in relazione anche ai suoni che hanno fatto gli altri. Quindi mentre prima li ascoltiamo suonare liberamente tutti gli strumenti, dopo li ascoltiamo in alcune strutture che diventano delle vere e proprie cellule ritmiche. Il suono veicola una enorme quantità di significati e di significanti, e l'ascolto quindi diventa una forma di cultura. Entrambe hanno la capacità di assurgere a valore politico ad atto di resistenza. L'infosfera infatti accoglie i contenuti senza un filtraggio a monte, ma fortunatamente esistono ancora produttori consapevoli ed affilati. Motivo per il quale diamo il benvenuto al nostro ultimo ospite, non in ordine di importanza, Massimo Carozzi. Massimo, ciao, benvenuto. Ciao a tutti, benvenuti. Allora Massimo, tu sei un artista sonoro, un musicista e un sound designer, esplori le intersezioni fra suono e testo, immagine, scena, spazio. Hai curato il suono e le musiche per documentari, film, spettacoli teatrali e di danza. e sei anche autore di audio documentari, cartografie sonore e podcast trasmessi e pubblicati dai Rai Radio 3, Cora Media, e Storie Libere. Nel 2000, insieme ad Anna Rispoli e Anna De Manincor, hai fondato Zimmer Frei. Allora, Massimo, una concezione dell'ascolto come quella che stiamo tentando di propugnare suggerisce un approccio all'acustica come base, diciamo, per sintonizzare relazioni e anche luoghi. Si parla infatti di giustizia acustica e di acustica sociale. L'acustica, secondo te, è un campo di azione politica? L'acustica e l'ascolto o un certo modo di ascoltare possono avere, diciamo, delle significazioni politiche. Dipende molto da cosa si ascolta e da come lo si ascolta. Ebbene sì, da cosa si ascolta e da come lo si ascolta. Come si ascolta qualcosa in maniera politica allora? Ma io ti posso parlare, diciamo, ti posso parlare del di un certo tipo di esperienze che ho fatto, certo, nel mio lavoro. E ad esempio, da qualche anno, da solo o insieme a Agnese Cornelio, abbiamo messo in campo una serie di cartografie o etnografie sonore, che sono un modo di mettersi in ascolto dello spazio in cui viviamo, fondamentalmente i territori urbani, capire che cosa hanno da dire, da raccontare le persone che vivono e attraversano questi territori, e fornirgli, come dire, una piattaforma che è quella dell'ascolto e quella della riproduzione del suono per raccontarsi. E in questi lavori che abbiamo fatto in diverse città più o meno grandi, da Ostia, diciamo il quartiere di Roma che si affaccia sul mare, qua a Bologna, un quartiere di Potenza, la zona industriale di Verona, uh-huh, abbiamo messo in campo questo tipo di approccio di raccolta di materiali che sono principalmente di due tipi. Il suono ambiente, cioè come si manifesta lo spazio sonoramente, e che cosa le persone che vivono in questi spazi hanno da dire e da raccontare della loro relazione con i luoghi. E questi materiali, se riascoltati, diciamo, negli stessi luoghi di cui si parla o negli stessi luoghi che producono questi suoni, ci siamo accorti che quello che viene fuori ha una valenza anche politica, cioè ci dice qualcosa del modo che le persone hanno di vivere gli spazi e di vivere la città, e spesso queste narrazioni vanno al di là, diciamo, della pura cronaca e approdano in un territorio che è fatto anche di conflitto, se vogliamo, con la situazione in cui si vive. E diciamo il canale dell'ascolto si presta bene a mostrare questo tipo di situazione. Ascolta, secondo te si sviluppa, non dico una forma di identità, ma una forma di appartenenza al proprio luogo tramite l'ascolto dei suoni del luogo di cui si parla, quindi? Si sottolinea? Io ti parlo sempre della nostra esperienza. Certo, diciamo, certo, non parliamo mai a livello assolutistico. Per fare degli esempi più concreti. Quando facciamo questo tipo di ricerca, le interviste, le conversazioni con le persone avvengono di solito in un luogo della città che loro scelgono, e questo luogo, prima di avviare la conversazione, che poi parte sempre da una domanda molto semplice: qual è la tua relazione con questo spazio? C'è sempre un momento, diciamo, preliminare in cui insieme ascoltiamo quello che sta accadendo intorno a noi. E diciamo, come è venuto fuori anche diciamo, dai discorsi che sono stati fatti in questo bellissimo simposio, il solo fatto di mettersi in ascolto, mettersi in quella condizione diciamo di attenzione particolare, fa emergere dei dettagli, delle sfumature, che di solito cadono sotto la soglia dell'attenzione, e c'è una maggiore consapevolezza. E questo stato, anche diciamo durante la conversazione, rimane, riverbera in qualche modo. Dicevamo infatti che il suono è un enorme veicolo di informazioni dirette, quindi un sistema significante il cui ascolto ha la potenza della sincronicità e dell'universalità anche, diciamo, perché i suoni quelli sono e ognuno li recepisce allo stesso modo, poi li ascolta in maniera diversa. Nonostante ciò, noi abbiamo degli strumenti per vedere una cellula che si sdoppia, ma non per ascoltarne il suono. E questo, ai miei occhi, sembra una sottovalutazione del senso dell'udito, forse addirittura uno snobismo. Su questo aspetto scientifico non saprei cosa dirti. Però ma vorrei... più che dell'aspetto scientifico, prendiamolo a livello metaforico. Vorrei ritornare su... vorrei chiudere diciamo su questa esperienza delle etnografie sonore. Questi materiali che raccogliamo vengono poi riproposti ad un pubblico altro all'ascolto negli stessi luoghi, ovvero diciamo chi ascolta poi questi materiali si trova ad ascoltare una registrazione che è avvenuta in un altro tempo, ma che ha comunque ancora una relazione con il presente. Sì, è vero. E diciamo questa frattura fra il suono reale e il suono riprodotto, ecco, in questa frattura qua in cui si pone l'ascolto, succede qualcosa di particolare. Succede qualcosa di particolare in cui diciamo il termine di congiunzione è chi ascolta. E lì sei in una posizione, una posizione che ti permette di, come dire, di far lavorare il tuo cervello mentre ascolti. Sì, perché si sviluppa una dimensione emotiva decisamente pregnante, senza voler arrivare alla questione prustiana della situazione. E per esempio mi sembra che fosse il 1960 quando il McLuhan definisce lo spazio uditivo, ovvero una regione dell'esperienza non influenzata da concetti quali il confine o la prospettiva, ma piuttosto connessa alla polifonia, al continuum spazio-temporale, come direbbe l'Apollino Oliveros. Una regione dell'esperienza quindi verso la quale ci poniamo in maniera essenzialmente emotiva. Quello penso che sia uno delle grandi potenzialità dell'ascolto. Guarda, per me queste modalità di ascolto che pratico da molto tempo, c'è uno sforzo di di proiettare delle immagini dentro la testa di chi ascolta. Queste immagini non passano attraverso, diciamo, la retina, ma passano attraverso l'orecchio, passano attraverso l'apparato uditivo. Sì. E questa è una cosa, cioè questa capacità che ha il suono di costruire delle immagini dentro chi ascolta è sempre stata una cosa che mi ha interessato e che ha attraversato anche molti dei lavori che mi sono ritrovato a fare. Questa capacità esplosiva dell'immaginario che ha il suono sulla testa, esatto, di chi lo percepisce, così come lo ha la letteratura. Ascolta Massimo, tu per questo simposio, che abbiamo avuto la presunzione di dichiarare tale, hai prodotto un paio di contenuti, li vogliamo raccontare? Allora, sono due frammenti di lavori, uno è per la radio, è uh-huh. per Radio 3 ed è alla forma del documentario sonoro, uh-huh. e l'altro invece è un lavoro che ho realizzato, di cui ho realizzato la parte sonora e la parte, diciamo, di scrittura è di mio fratello Ivan e di Nicolò Porcelluzzi. Uh-huh. Il primo frammento, non so in che ordine li ascolteremo, però il primo frammento viene appunto da questo documentario sonoro che si chiama Suoni Sacri, che è andato in onda nel 2021, mi pare, su Radio 3, uh-huh. ed è un'esplorazione delle comunità religiose bolognesi, del comprensorio bolognesi, e del modo in cui queste comunità, dentro le loro liturgie, si relazionano con il suono e con la musica. E cosa è successo? Questo è il lavoro che ho fatto insieme a Agnese Cornelio. Per qualche mese abbiamo girato per parrocchie, chiese, capannoni, abbiamo partecipato a messe, funzioni e abbiamo registrato i suoni prodotti in quelle situazioni e abbiamo raccolto diverse voci, con le quali poi abbiamo costruito queste 5 puntate. Okay. E qui è una rassegna di come le comunità religiose si relazionano col suono. Il primo frammento che ti ho proposto è registrato a Rastignano, dentro un capannone, dove ogni domenica si ritrova questa, diciamo, congregazione evangelica che si chiama Omega Fire Ministry e sono nigeriani ed è una chiesa evangelica episcopale che si è formata negli anni 80 ad Auchi in Nigeria e che, diciamo, è molto particolare, ecco, come se vuoi prima l'ascoltiamo e poi vi posso ridire posso riraccontare qualcosa su questo ascolto. No, introducici per favore anche il secondo contributo. Il secondo contributo invece, diciamo, il formato è sempre quello del documentario sonoro e qui invece diciamo il contesto è molto diverso, perché la storia della leggendaria rivista Frigidaire, che è una rivista che è uscita a partire dal 1980 in Italia, era una rivista molto particolare che raccoglieva sia fumetti, mm-hmm. Illustrazioni che reportage, articoli, ed è, diciamo, è la rivista totemica. Che ha visto diciamo presentarsi al mondo alcune figure che sono poi entrate nella storia del fumetto, sì. come Andrea Pazienza, Stefano Tamburini, Tanino Liberatore, sì. Filippo Scozzari, eccetera eccetera, ed ecco, questo è stato un lavoro molto particolare perché si trattava di raccontare in audio un prodotto eminentemente visivo, uh-huh. una rivista che si sfoglia fra le mani, che è fatto appunto, diciamo, è basata su un linguaggio prevalentemente visivo. E per cui non è stato semplice. Immagino, diciamo, come qualsiasi forma di traduzione. E, tra l'altro sono 5 puntate, mi pare 5-6 puntate molto dense di circa 50 minuti l'una, in cui hanno fatto un grande lavoro di scrittura e di struttura anche per raccontare questa vicenda così molto particolare, Ivan e Nicolò. E per me la sfida era appunto di rendere in audio, che ne so, ora il frammento che sentiremo ha a che fare più che altro col personaggio di Rank Zero, sì. come lo rendi in audio? Liberatore. Di Liberatore Tamburini, mm-hmm. come lo rendi in audio? Questo ottima domanda, sì. esplosivo. E lì ho mi sono divertito a fare un lavoro molto particolare di sonorizzazione, ma anche a lavorare su materiali d'archivio che ho trovato in rete, che potessero un po' rievocare anche quel tempo, ecco. E questo, per cui sono due lavori, diciamo, sostanzialmente molto diversi, ecco. Immagino che il tuo lavoro sulle fonti sia meticoloso e certosino. Bene, Massimo, noi ti ringraziamo del tuo contributo. Grazie a voi. Ti ringraziamo del tuo contributo. Ricordati di ricordare e ascolta il tuo ascolto, Massimo. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao, grazie. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ci troviamo in un capannone della zona industriale di Rastignano, alle porte di Bologna. Thank you. Yes, thank you. Quella che state ascoltando è la voce di Tyron, un diacono di Omega Fire Ministry, una comunità pentecostale fondata nel 2004 a Auchi, una città di 500.000 abitanti nello stato di Edo, in Nigeria. Thank you. Yes, thank you. Thank you, Jesus. Tyron sta provando i microfoni che serviranno ad amplificare la sua voce. Yes, thank you, Jesus. Praise the living God. Somebody shout hallelujah. Amen. Thank you, thank you, thank you, thank you. Praise the living God. Hallelujah. Pastor Sunny entra soltanto a un certo punto della celebrazione. Indossa un completo bianco bordato di lamè rosso. Rimane a lungo in silenzio prima di prendere la parola. I need an encounter. Invita i fedeli a confidare i loro bad dreams, i cattivi sogni, per poi guidarli attraverso la voce e il ritmo in un rito di penitenza collettiva. Una delle intuizioni di Tamburini, per esempio, era la scoperta che il punto di contatto tra le avanguardie intellettuali e i cosiddetti coatti potesse essere la droga. Questo passaggio stava prendendo forma proprio in quegli anni, quando nelle città iniziavano a scorrere fiumi di eroina e cocaina. Bucavo, adesso c'è, non bucavo una volta ogni tanto, così tanto per capire la gente che buca perché buca. Senti, ma tu perché buchi? Che cazzo c'è che ti manca? Cioè, buchi, c'è un motivo che buchi, no cazzo, c'è un motivo che buchi. Cioè, sì, perché insomma ci sta gente che buca e io non so neanche perché buca a volte, capisci? Buchi, sei una fedenzione all'umanità, vaffanculo. Ma no, me ne devo andare, non ce la faccio più a stare qua. Il potere del coatto è il corpo, il muscolo, la proteina. Negli anni 70, invece, i corpi dei freak e degli studenti del DAMS disegnati da Pazienza erano impigriti, fiacchi, smunti. espressione del linguaggio semantico in una società anale. Il tono muscolare era scarso e facevano eccezione le ragazze, sempre ipercurviline. Come potete pensare di capire qualcosa in 5 minuti, dico che è la nostra vita? La vuoi capire adesso in 5 minuti qua? Cioè, però altrimenti, cioè, rendetevi conto che il problema è vostro. Non lo so, è assurdo, cioè. Oggi le grandi città pullulano di corpi gonfiati degli anabolizzanti, mentre sui social circolano video e foto di influencer postumani, di corpi traslucidi scolpiti dalla palestra e con labbra e zigomi corretti da filtri volumizzanti. Spesso si tratta di coatti e tamarri che si minacciano e si lanciano sfide tra Roma e Milano. Figure ormai famosissime, come Air Faina o Air Brasiliano, sono corpi costruiti, corpi da laboratorio, come quello di Rank Xerox. Stefano Tamburini, romano di Centocelle, porta sul primo numero di Frigidaire il personaggio del cyborg Rank Xerox. Tamburini è consapevole di non avere una grande mano e perciò stavolta il disegno di Rank Xerox è affidato a Tanino Liberatore. Dalle matite di Liberatore prende forma una creatura mitologica. Un robot dotato di una muscolatura michelangiolesca, capace di esplodere in scoppi d'ira barbarici, ancestrali, la cui tenuta psicologica dipende dal rapporto con Lubna, una ragazzina infernale di 13 anni. L'ultima tavola del primo episodio di Rank Xerox è una visione del futuro e un omaggio all'eternità di Roma. Rank Xerox è supino, a terra, circuiti e pezzi di metallo spuntano dal cranio scoperchiato, mentre sullo sfondo si stagliano le rovine perenni del Colosseo. Il giorno prima di partire per ogni viaggio mi ritaglio un po' di tempo, subito prima di fare la valigia, e acquisto 4 album. Questo è il mio vero necessaire. Un album è per il risveglio, uno è per la natura, uno ha un groove sostenuto ed uno è intimo, notturno, introspettivo, l'album per pensare, diciamo. Me li ascolterò ossessivamente durante il viaggio per poi lasciarli sedimentare al rientro. A distanza di tempo, al riascolto, voilà, ecco dentro di me navicelle tempo-spaziali, attivare l'antimateria dell'ascolto ed io per qualche istante sono di nuovo in marcia. Steve, invece, il protettore del nostro simposio, in un'intervista, Stevie Wonder intendo, dice che l'ascolto è il suo sesto senso, anche se poi uno gli manca. Dice di riconoscere molte persone dalla falcata e dal calpestio. Dice di saper riconoscere lo spessore e l'altezza del tacco delle donne, anche su moquette. Di cosa sono vestiti? Ascoltando il suono prodotto dallo sfregamento dei vari tessuti. Dice di saper riconoscere le più sottili sfumature caratteriali e comportamentali dal tono e dal timbro vocale, dalla metrica della parola, dalla lunghezza dei silenzi fra le affermazioni, dalla secchezza delle labbra e ancor più dal battito del cuore, che lui in realtà non lo sente mai il battito, ma ha un dono naturale per ascoltarlo in altri modi. Soprattutto Stevie dice di saper riconoscere chi viene a chiedergli soldi prima ancora che arrivi. Al buio, orizzontali, quando gli occhi non servono più e si licenziano dal quotidiano, sono molti i suoni e ancora più i pensieri che si affacciano alla soglia del nostro ascolto. Spesso però, anche in quel momento privilegiato, evitiamo di ascoltare il nostro ascolto. Al buio, Stevie è un simposio radiofonico ideato, scritto e condotto da Alessandro Brighetti. Grazie al mio fratello non biologico Mattia Scampaci, in qualità di coautore e di assistente alla realizzazione, e un grazie sincero alle coautrici e ai coautori del simposio, senza cui tutto ciò sarebbe rimasto solo nell'ipereuranio delle idee. In ordine cronologico, Diana Lola Posani più Marco De Martino, Laboratorio Melologos di Giade Landretto, Stefano D'Arcangelo e Vuminguno, Carlo Maver, Mattia Scampaci più Gianluca Favetto, Alison Grimaldi Donahue, Umberto Ciceri e Guido Corti, Erika Salbego più Alessandro Paola, Massimo Carozzi. Buon ascolto a tutte e a tutti, ricordatevi di ricordare e ascoltate il vostro ascolto. A risentirci.